Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Una gamma camera è un apparato che permette di rivelare i raggi gamma. In pratica si tratta di una specie di speciale camera fotografica sensibile ai soli raggi gamma, appunto un tipo di radiazione elettromagnetica particolarmente dura ed energetica che viene emessa in presenza di reazioni nucleari o fenomeni di decadimento radioattivo, che è in grado di attraversare spessori anche notevoli di materiali di vario tipo. Insomma, un po' come i raggi X, ma ancora più penetranti. I raggi gamma hanno più di un'applicazione in medicina, di tipo terapeutico ma soprattutto di tipo diagnostico, in particolare la scintigrafia, un esame ben noto che sfrutta i raggi gamma per visualizzare, diciamo così, immagini dell'interno del corpo umano, immagini che appunto vengono raccolte da una di queste gamma camera. In genere queste gamma camera sono però degli apparati ingombranti e anche piuttosto costosi, ma dall'Istituto di Bioimmagini e Biostrutture del CNR in arrivo una gamma camera poco più grande di uno smartphone ed estremamente precisa, che permetterebbe di ampliare l'uso di tecniche come appunto la scintigrafia. Ci spiega tutto Alessandro Soluri, che è ricercatore dell'IBB CNR e ideatore di questa tecnologia. Buonasera Soluri. Buonasera. Dunque Soluri, per capire un po' meglio come funzionano questi apparati, forse possiamo spiegare un po' meglio come funziona la scintigrafia. Sì, intanto è una tecnica di tipo funzionale, vale a dire banalmente che mediante un radiofarmaco che si inietta via endovena si concentra dove è presente una patologia. Cioè, quindi questa sostanza si fa apposta, perché non so, se voglio vedere il fegato, si concentri nel fegato, esatto. Diciamo? Sì, sono dei veicoli, diciamo, dei target mirati per arrivare al bersaglio. Che serve, appunto, a questo punto questo cosa succede al fegato quando assorbito il tracciante? Emette più quantità di radiazione rispetto agli altri punti del tessuto, quindi di conseguenza è come se fosse più evidente. Più brillante, è come vedere una di quelle statuine fluorescenti quando brillano al buio, esatto, no? Sostanzialmente. Esatto, diventa esatto. Così il fegato, diciamo, fluorescente, esatto, a modo suo. Sì, diciamo che l'analogia è abbastanza fedele. E quindi diciamo che copre una mappa in cui ci sono punti di accumulo che in molti casi sono indicano la presenza di patologia. Può essere una patologia oncologica oppure certo, anche cardiologica, del tipo potrebbero essere anche indagini legate soltanto alla funzionalità. Ecco, quindi per capirsi, se io do un tracciante che si concentra nei tessuti tumorali, con questa gamma camera vedrò la fotografia di questo blocco di tumore che si trova all'interno del corpo umano. Le dimensioni, diciamo, come è composto il tessuto intorno anche alla patologia. Di conseguenza anche l'estensione, diciamo, no? Perfetto. Siamo a indagini anche tipo molto complesse, tipo i gliomi nel cervello, dove invece avere esattamente la posizione è importante. È assolutamente fondamentale. Cioè, per poter intervenire, per esempio, chirurgicamente o altre, sì, o altre cose. Esatto, infatti questa gamma camera è particolarmente idonea, diciamo, per andare in sala operatoria, visto il piccolo peso. Ecco, perché veniamo alle caratteristiche appunto di innovatività di questo vostro progetto, di questa vostra invenzione. Sì, che al di là della miniaturizzazione della gamma camera in se stessa, diciamo, comporta anche un avanzamento tecnologico legato alla capacità di vedere meglio rispetto alle gamma camere tradizionali, quindi anche un potere risolutivo migliore. E la particolarità appunto di essere contenuta visore e rivelatore nella stessa scatola. Quindi che è grande quanto? Ma diciamo è quasi come uno smartphone, infatti noi lo abbiamo identificato con il nome di Pocket gamma camera, per dare appunto il senso della ridotta dimensione, quindi è un po' più grande di uno smartphone con display, diciamo un 4 pollici e 7. Assomiglia un po' a, diciamo, una macchina fotografica digitale, ha un sensore davanti, si avvicina al soggetto che si vuole esaminare, esatto, questo sensore, sul retro c'è uno schermo come su una macchina fotografica, esatto, e voi vedrete però l'immagine formata da questi raggi gamma che arrivano dall'interno del corpo. Esatto, esatto, e anche la capacità di questo rivelatore di vedere meglio rispetto alla tradizionale gamma camera, in quanto ha una tecnologia interna migliorativa, più quindi sofisticata. Esatto. Il vantaggio è essenzialmente legato al fatto che funziona a batteria, non ha cavi esterni, non ha quindi ingombri intorno, per esempio in sala operatoria, è molto importante una cosa del genere, perché consente appunto di avere un dispositivo compatto tenuto in mano dall'operatore e localizzare rapidamente la patologia. Senta, a che punto siete dello sviluppo di questa idea? Che cosa vi serve per andare avanti? Ma attualmente abbiamo dei prototipi che già abbiamo sperimentato, tanto da pubblicare anche dei lavori scientifici sull'argomento. Attualmente siamo, come si dice, sotto osservazione da parte di qualcuno che vorrebbe sfruttare l'idea a livello industriale, in quanto abbiamo anche i brevetti concessi sia in Europa che negli Stati Uniti. Senta, state anche pensando a un'evoluzione successiva già di questo apparato che avete messo a punto, o magari ad altre applicazioni, non lo so. Sì, abbiamo già in mente di fare una gamma cara un po' più grande, una 20x20 cm per il cuore, di tipo compatto. Infatti questa tecnologia per la strada... Una specie di iPad, in questo caso. Esatto, un tablet e uno smartphone, no? La differenza. Che in teoria per la strada ha rivelatori molto compatti, di basso peso, che possono andare direttamente al letto del paziente. E questa sarebbe una grande conquista. Va bene, allora grazie Alessandro Soluri. Grazie a lei, buona serata. Bene, anche per questa sera è tutto, ci diamo appuntamento come sempre a domani.